Benvenuti a questa nuova puntata degli Spacciaserie. Stavo per dire monoserie, ma monoserie è appena finita. Nel frattempo abbiamo qui ancora tra noi Marco Paciu, che ci fa da mini ospite, perché poi sì, oltre che disturbatore. Rifaccio la prova da dietro il microfono, va bene? Sì, ok, tu parla da dietro il microfono, non si sente niente, tanto l'ho detto. Dunque, parleremo di cosa oggi? Vediamo se lui è stato attento durante monoserie. Parla davanti al microfono. Di Rising Hope. Certo, non so se la mutina è così aspirata, però va bene, sì. Di quello parliamo, di Rising Hope. Sì. Tu ne sai qualcosa? No, so però che mi stanno aspettando a mezza e devo andare. Va bene, allora è stato fantastico parlare con te durante anche questi primi 5 minuti di Spacciaserie. Anche per me è scasso. Oh, è buona, buona scassata a tutti con gli Spacciaserie. Non c'è nessuno che spacca, scassiamo e basta. Esatto. Ciao a tutti, buon programma. Ok, il programma sarà da adesso più triste perché avrete una sola voce al microfono. Stai impazzendo. Nel frattempo, io direi di cominciare con, senza dirvi niente, assolutamente niente, di mandare subito un altro pezzo. Mandiamo Home di Edward Sharpe e Magnetic Zeros. Opla. Eccoci tornati. E parliamo quindi oggi di Raising Hope. Raising Hope è una serie TV statunitense creata da Greg Garcia. Greg Garcia, che forse qualcuno di voi conoscerà per essere il creatore anche di My Name is Earl. Ecco. E molti, è una fiction, My Name is Earl sempre, che molti osannano. Ci sono tantissimi fan che seguono. Hanno seguito My Name is Earl, perché My Name is Earl è finita dopo 4 stagioni, e il Greg Garcia appunto ha pensato bene di rifarsi sotto con una cosa nuova e ha creato Raising Hope. Raising Hope ha debuttato su Fox in America il 21 settembre 2010, quindi quest'anno, e pochi giorni fa, la settimana scorsa tipo, è andato in onda l'ultimo episodio di questa prima stagione, è stato rinnovato. E in Italia la serie ha debuttato il 3 febbraio, sempre sulla Fox, sul canale della piattaforma di Sky. Bene, di cosa parla Raising Hope? Raising Hope è, senza voler svelare un po' proprio tutto, tipo il titolo, che si capirà più o meno a metà della puntata, credo, è la storia di questa famiglia, composta da Jimmy, 23enne, la madre Virginia, il padre Bert e la bisnonna di Jimmy, che si chiama Mau Mau. Non sappiamo, non c'è dato sapere per come mai si chiami così, ma è evidentemente un nome come un altro in America, Mau Mau. E cosa succede? Jimmy lavora insieme al padre per una ditta di pulizia piscine, giardinaggio e cose del genere. E insieme con loro vive anche per un certo periodo, per tipo i primi 2-3 episodi, il cugino, non si capisce di che grado né come sia cugino di Jimmy, che si chiama Mike. E Mike aiuta anche lui nell'azienda di famiglia, insomma nel giardinaggio. E invece Virginia lavora, e ve lo faccio scoprire con un piccolo spezzone che vi faccio ascoltare Aurora. Opla. Ma smettetela. Ehi, mamma. Che ci fai a casa? Licenziato. Nella vita deve esserci di meglio che pulire sempre la stessa piscina. No, non c'è. Che diavolo di fretta avete, ragazzi? Lo sapete che stiamo andando a pulire cessi, sì? Mm. l'azienda di cui fa parte la madre si chiama Knock Knock Knock, cioè bussa bussa bussa, e appunto quello che, di cui si occupa è la pulizia delle case altrui, della casa di solito di gente ricca, più ricca di quanto non siano la famiglia Chance. E quello che stiamo ascoltando è un pezzo di base di un compositore russo, Mujuis, si chiama Moonboy il pezzo. Ma adesso vi voglio far ascoltare dalla colonna sonora di Raising Hope, Punk Rock Girl dei Dead Milkmen. Bene, bene, bene, bene, bene, eccoci tornati. Dunque, fino adesso non abbiamo detto assolutamente niente, abbiamo detto soltanto quali sono i mestieri che fanno appunto i familiari di Jimmy il protagonista. Ma diciamo che c'è un evento che scatena un po' la catena dei fatti che si succedono poi e che danno un senso alla storia. Questo evento, ora ve lo farò ascoltare, ma parte dal fatto che una famiglia di un po' stupidotta, diciamo, di gente simpatica essenzialmente, di gente che si diverte, che vive la vita con molta leggerezza, pur vedendo, notando i problemi che ci sono, ma stigmatizzandoli e passandoci su. E detto questo, vi faccio ascoltare quello che è un po' l'evento scatenante. Buon ascolto. Per il significato della vita va avanti? Sì, ci sto lavorando. Non ho ancora compreso lo scopo della mia vita, ma se dovessi incidere un album ho già la copertina. Com'è andato il lavoro, Wilfred? Hai venduto qualche enciclopedia? Pensa sempre che io sia il suo defunto marito. Forse è questo il tuo scopo. Assecondala. I ricordi sono tutto ciò che è rimasto alla tua bisnonna. Oh, ok, ok, ok, ok, ok, nonna. Vai di là a vedere se c'è qualcosa in TV e io ti porto un dolcetto. Ok, Dai. Va bene. Oh no, maledizione, il bubblegum gelato è finito di nuovo. Ecco, qui ci stanno tutti toccando il naso perché è l'ultimo che se lo tocca, poi gli tocca fare quello che deve fare. No, ma dai, non è giusto, mi stavo lavando via nonna dalla bocca. Ragazzo, che sta succedendo? È andata male, idiota! Che succede? Ehi, che sta? Oh mio Dio, è incredibile! Hai appena salvato la mia vita! Ascolta, io cosa? Hai appena salvato la mia vita! Wow! Sei un vero eroe e sei tanto carino! Davvero? Hai salvato la mia vita e sei tanto carino. Questo è fantastico. Mahmoud Akmana di Mahmoud Akmana. Ehi, ecco l'eroe. Eccomi qua. Prendi una sedia, bello addormentato. La tua amica ci stava spiegando il notiziario. Sa anche pronunciare il nome di quel tizio iraniano. Dillo di nuovo. Mahmoud Ahmadinejad. Virginia, per caso sai dirmi dov'è il bagno? L'ultima porta a sinistra. Se fai il bisogno grosso devi tirare l'acqua due volte e non aprire il rubinetto del lavandino mentre lo fai. Io dovrei tirarla una terza volta. Certo. Torno subito. Dillo ancora. Mahmoud Ahmadinejad. Mi piace, Jimmy. Credeva fosse tua sorella. Sembri proprio sua sorella, dolce ragazzina. Gli avevo detto che rimanere incinta a 15 anni non era male. Già, non è male, vero? Cercavo il senso della vita e finalmente l'ho capito. Credo sia questo. L'amore. Forse sono innamorato. Voi avete capito come si chiama? Si chiama Lucy. La polizia sta cercando attivamente questa donna, Lucy Carlyle, alias Joan Doyle, alias Selma Ridersdale. La Carlyle è ricercata per omicidio plurimo aggravato. Uccide i suoi ragazzi, due fino ad ora. La inseguiamo da un po', ma continua a cambiare nome. È furba. Ha cercato di strangolarmi con un laccio. Urlava perché mi ero dimenticato il suo compleanno. L'ho rincorsa per qualche isolato, ma è saltata in un furgone con un ragazzo. Buona fortuna, amico. Il compleanno è il 12 maggio. Comprale un biglietto subito. Chiunque abbia informazioni su dove si trovi Lucy Carlyle, contatti le forze dell'ordine immediatamente. E ricordate, sembra innocua, dolce, ma è estremamente pericolosa. E ora cambiamo completamente pagina. Vi raccontiamo la storia di un piccolo criminale che è riuscito a rimediare i suoi errori. Fra poco vedrete come. Chiama la polizia. Esatto. Chiama la polizia. Allora, dunque, per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso, cosa è successo? Quello che è successo è che Jimmy, il protagonista di questa serie TV, che ha 23 anni, e va a prendere il gelato perché è finito. Tocca a lui perché questa famiglia si scherza, quindi chi ti tocca per ultimo il naso è quello che è tipo prendere la paglietta più corta, no? Quindi toccava a lui. Prende il furgoncino, prende il gelato. Mentre sta tornando a casa, una ragazza gli corre verso il furgone, gli bussa spaventatissima, gli dice: apri per favore, apri, scappa, scappa, scappiamo. E la ragazza è inseguita da un misterioso ragazzo e scappa via con Jimmy. E per ringraziarlo, diciamo, la notte restano nel furgone e fanno cose. E al risveglio lei è già entrata in casa, si è presentata al resto della famiglia, e che la trova molto, molto attraente, molto, molto simpatica. E quando lei decide di andare in bagno, intanto la TV è accesa e stanno preparando la colazione, appare appunto l'avviso che lei è una ricercata, è una serial killer e uccide i suoi ragazzi. E quindi, preoccupati di tutto questo, quando lei ritorna la stendono con un colpo di TV e chiamano la polizia. Ecco, questo è quello che succede. Adesso, a un certo punto, la madre richiama Jimmy mentre è in carcere e perché gli deve dire una cosa. Ora, la cosa, non ve la posso dire così io direttamente, ve la preferisco lasciarvela ascoltare direttamente dalla voce della mamma di Lucy Carlyle, alias altri nomi. Quindi ecco qui. La tua ragazza è molto furba. Come ultimo pasto ha ordinato un McRib e uno Shamrock Shake. Ha guadagnato qualche mese. Sono due cose che non sono mai disponibili nello stesso periodo. Non è la mia ragazza. Ehi, dolcezza! Ehi. Ti mancavo? Ah, sì, sì, certo. È di questo che volevi parlarmi. Che sta facendo? Ha un'ora al giorno per fare esercizio. Un'ora? Chiedo al direttore. Ho un'ora e mezzo io. Un'ora per me e mezz'ora per il bambino mio di Jimmy. Non ho fatto niente da te. Ho pensato che dovevi sapere che diventerai papà. E sai qual è la parte migliore? Sarei dovuta andare sulla sedia elettrica tra 7 mesi. Ma era prima che sapessero che sono incinta. È impossibile che uccidano la madre di un bambino di 6 mesi. E invece l'hanno uccisa, l'hanno fritta sulla sedia elettrica. E quindi, adesso, secondo voi, lui si ritrova con questa bambina che è nata e che lei ha chiamato Princess Beyoncé. Cosa diranno i suoi familiari? Cosa penserà la nonna? Cosa penserà il suo cuginetto Mike? Cosa penserà? Ve lo facciamo ascoltare subito adesso, vi lascio lì sulle spine, no? Ok, cosa penseremo? Come si chiama? L'ha chiamata Princess Beyoncé, ma credo che lo cambierò. Neanche per sogno, il nome spacca. Una bambina. Oddio. Beh, la puoi sempre lasciare ai vigili del fuoco, ma assicurati di darla a qualcuno, non lasciarla nel cassonetto di fronte. Quella è per scatolette e cuccioli abbandonati. Non la lascerò ai vigili del fuoco. Sì, non abbiamo tempo. Stasera abbiamo un rave, ricordi? Io non posso andare a un rave. Ma devi venirci, sei il mio autista. Se vado con la bici mi si sgualciranno i pantaloni. E che li avrò stirati a fare? Ragazzi, sentite, io terrò questa bambina e apprezzerei un po' di supporto. Togli subito quel cane dal mio divano. Non puoi tenere la piccola, Jimmy. Te lo dico io, un bambino ti cambia filostroficamente la vita. Cosa le darai da mangiare? Non hai neanche i vestiti. E non sai nemmeno dove far fare dei ritratti di famiglia a poco prezzo. Va bene, penserò tutto più avanti. L'ho avuta neanche un'ora fa. Come hai fatto a tornare? Di un po'. Non hai il seggiolino? L'ho messa nel retro del furgone, sulla poltroncina, e ho guidato piano. Ah, ok. Jimmy, e se portassimo la bambina con noi al rave? Guarda qua. Basta poco per far credere a tutti che è un mostriciattolo. No! Dai, bello! È uscita ora di prigione. Lasciala divertire. Le prenderò un seggiolino, le prenderò un sacco di cose per bambini. Con quali soldi? Impegnerò la mia roba. Il banco dei pegni ha molte cose per bambini e la mia culla è in garage. Tenetela d'occhio finché non torno. Tu non lasci qui la bambina. Ma devo! Non posso guidare con lei senza il seggiolino. Anche andando lenti, la poltroncina si muove molto nelle curve. Non ti aiuteremo questa volta. È l'unico modo per farti capire che è una stupida idea e che dovresti lasciarla dai vigili del fuoco. Vuoi andare a vedere i pompieri, piccolina? Eh? Opla, rieccoci qui di nuovo in linea. Abbiamo qui un mini ospite perché non sappiamo tra un po' dovrà scappare, credo. Come va? Ciao Bernie. Buongiorno, buonasera. Buongiorno, ciao. Buongiorno. È fumato, non capisce dov'è. Buongiorno. Infatti ho già fatto la mia paccata, non vi dico quale sia. Avvicinati al microfono. Mi bravo, ho già bravo. Ho fatto la mia paccata di stasera, quindi... Ecco. Io le vedo qui come corpo del reato, tra un po' ti arriva una chiamata in cui, guarda, lasciamo stare. A un certo punto scapperò. Comunque, noi stiamo parlando di Racing Hope, chiaramente tu, non avendo la TV e non seguendo solitamente serie TV... Non so assolutamente cosa non sia, sai assolutamente questa cosa. Volta ho dato una risposta giusta, anche se non sapevo cosa, assolutamente cosa fosse. Ricordiamo quindi, visto che sei qui, che più tardi, per chi lo volesse, facciamo il quiz. Ah, ecco. Quindi, perfetto. Se volete partecipare al quiz dall'Italia, dalla Scozia, dall'Irlanda, dall'Islanda, dalla Bosnia-Erzegovina, da dove vi pare, potete aggiungere su Skype gli spacciaserie, chiamarci o comunque mettervi in contatto magari prima via chat. Noi vi ascoltiamo, ci mettiamo d'accordo e facciamo il quiz. Ci mettiamo d'accordo nel senso che decidiamo il momento esatto in cui far partire il quiz. E poi il premio, secondo me, è la parte migliore. Il premio è sempre la tazza. Sta per cambiare. Però per adesso è ancora la tazza virtuale, non più virtuale. Però tra un po' diverrà la maglietta virtuale, non più virtuale, di Radio Cicletta. Perché noi dello staff, avremo la maglietta vera. Però stiamo producendo anche il JPEG di questa maglietta che possiamo regalare come premio nei quiz. Per adesso solo io faccio il quiz, quindi per adesso solo io regalerò magliette. Quindi ascoltate gli spacciaserie perché potete vincere la maglietta, non da questa volta, dalla prossima volta. Per adesso vincerete soltanto la tazza. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 alle 22. Guardate che promo vivente che ho portato. Benissimo. Allora, continuando invece a parlare di questa serie TV, cosa succede? Cosa succede? Che, come ha detto appunto Jimmy, deve andare per forza a impegnare qualcosa perché lui soldi non ne ha, né tantomeno ha cose per bambini. Quindi, mentre sta andando a impegnare il suo stereo, la sua chitarra e tutto quanto, incontra una gentile donzella. E noi, questo primo incontro con questa persona che poi resterà nella serie e ne farà parte... Non vi svelo il nome perché tanto lo dirà lei, o se non lo dice lei al ritorno dallo spezzone ve lo dico io. Benissimo, quindi attenzione, stiamo per ascoltare il primo incontro. Guarda la macchina No, è della mia famiglia. È nel nostro cortile da quando avevo 3 anni. Certo, ora deve ridarmelo. Non sto mentendo. È nostro. E quando il tempo è bello lo mettiamo sul fuoco e lo usiamo come griglia. Guarda, è rimasto un po' di formaggio. Che ci fa una bambina lì? Sai, purtroppo non ho ancora un affare spingi i bambini. Stavamo andando al banco dei pigni proprio ora. Signore, questa bambina di chi è? È mia. Si chiama Princess Beyoncé, ma penso che le cambierò nome. Non ho ancora un biberon. Me l'hanno data un paio d'ore fa. Sabrina, che stai facendo? La pausa è finita, mi servi? Qualcuno ha tolto tutti i barattoli dallo scaffale e li ha messi capovolti di nuovo. Chi è che capovolgerebbe tutti i barattoli? Oh, beh, io. Perché? Non lo so, lavoro in un supermercato, mi annoio. Sabrina? Ok, ok. Però giurami che è la tua bambina. Ah, beh, te lo giuro. Lui l'ha giurato. E quindi abbiamo sentito anche il nome, tra l'altro. Sabrina, visto? Si chiama Sabrina. Sabrina. Sabrina è una moretta simpatica che lavora in questo supermercato, che vede tra le sue file un padrone un po' strano, un po' sul simpatico, paternale, un po' alterna stati d'animo contrastanti, però vabbè, è un tipo strano anche lui, diciamo, non se ne salva uno in questa serie. Chiaramente è una serie dei toni un po' grotteschi, no? Si sarà capito da queste prime... Tu l'hai capito, ho no? Ho capito. Vedrai. Si capisce. Si capisce. Benissimo. È talmente grottesco che uno dei personaggi principali, che è la bis bis nonna di Hope, cioè di quella che ho svelato, ho fatto dello spoiler. Spoiler. Ecco, lo sapevo. non lo dovevo dire, di Princess Beyoncé per il momento, è affetta dal morbo di Alzheimer, ovvero sia ha dei problemi di memoria, non ricorda più dov'è, dove si trova, in che anno è, cosa le succede, scambia le persone per altre persone e quindi, cioè, le capita, come abbiamo sentito prima, di scambiare il bisnipote per suo marito e lo bacia davanti a tutti perché insomma ha smesso di fumare ma continua a fumare come una ciminiera, insomma è un personaggio un po' così. Però alcune volte capita che lei sia lucida, a quei 5 minuti di lucidità in cui si ricorda che vuole cacciare di casa gli occupanti, cioè i suoi familiari. E questo è quello che vi facciamo ascoltare adesso. Nonna, calmati per favore, non è brutto quanto pensi. Che sta succedendo? È lucida ormai da 5 minuti. Oh, siamo rovinati allora. Cioè? Mi state dicendo che ho permesso a tutti voi di vivere in casa mia gratis? Incredibile. Jimmy. Pronto? Chi diavolo sei tu? Sono Mike, il cugino di Jimmy. Siamo imparentati attraverso un divorzio o cose così. Vivo in una tenda di là. Oh no, non più. Raccattate il vostro circo e trovatevi un'altra tetta da succhiare. Stai scherzando, Jimmy? Hanno rubato il carrello della spesa mentre era al banco dei pegni. Oh, ma dai! Volevo fare gli hamburger per il weekend. Questa bambina sta incasinando tutto. Beh, non posso andarmene adesso. C'è una vera emergenza qui. La tua bisnonna è un Fred, digli di passare in macelleria mentre torna a casa, perché i Greenstein verranno a cena stasera e in frigo solo delle bracciole di maiale. Tutto a posto. Ecco, dura poco la lucidità. Tenace la signora. Sì, sì, ci riprova, insiste. E vabbè, adesso però mandiamo un pezzo, perché sennò la gente si scoccia, si scassa, come Scass. E mandiamo Devil's Haircut, cioè il taglio di capelli del diavolo, di Beck. Something's wrong, cause my mind is spinning. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperatures drop. Beh, attenzione intanto qui con i cellulari, scusatemi. Non ti preoccupare. Dunque, Dove eravamo arrivati? Che io ho un la nonna, la bisnonna, trisnonna. Sì, ho dei problemi di memoria. Dove eravamo? Che cosa stiamo facendo qui? Dove siamo? Dunque, tu chi sei? Allora mi butti fuori come... come il resto della famiglia. No, invece non ti butto fuori, ma ti faccio ascoltare invece un pezzo, un dialogo tra la mamma che appunto abbiamo sentito andava a riprendere Jimmy e Jimmy appunto sulla sua infanzia. Ora. Lo sapevo che sarei rimasta invischiata in tutto questo. Non ho il tempo per una bambina nella mia vita, Jimmy. È solo una volta, non ti disturberò di nuovo. Tanto ora che ho il seggiolino posso farla salire nel furgone. Il tuo furgone non ha il sedile posteriore, a cosa vuoi allacciarlo? Che vuol dire allacciarlo? Sta bene? Sta bene? Vedi? Sta bene. Non è possibile che tu non l'abbia allacciato. Pensavo si allacciasse la bimba al seggiolino, non il seggiolino alla macchina. Non so come funzionano queste cose. Lo sai come funziona la gravità, no? Non crederti tanto furba. L'unico motivo per cui sai farlo è che hai già avuto un bambino. Non è vero. Non avevamo questi affari di sicurezza quando eri piccolo. Ma di che parli? C'erano già i seggiolini 20 anni fa. Non ho detto che non c'erano, ho detto che noi non l'avevamo. One Sunday I took a walk in the forest. I met a girl there. Virginia, scoiattolo! Jimmy, attento a non cadere nel buco! Non posso credere di essere ancora vivo. Beh, lo sei. E se vuoi che anche la bambina viva, devi ascoltarmi e portarla dai pompieri. Non lascerò la mia bambina ai pompieri. Tu non sai cosa stai facendo. Sto imparando. E più leggo, più capisco tutte le cose che tu hai sbagliato. Tipo, non dovresti fumare davanti ai bambini. Ma solo quando sei incinta, stupido. E comunque non ci credo. Fumavo vicino a te e stai bene. Bene. Ho avuto l'asma per i primi 17 anni della mia vita. Ho 7 denti permanenti che non mi sono ancora spuntati e sono allergico alla frutta. Alla frutta! Ok, torniamo a piedi. Il libro dice che l'aria fresca le fa bene. L'aria fresca le farà pure bene, però diciamo l'ha lasciata a piedi. Voi non avete potuto apprezzare il momento in cui... c'è lui che casca durante la curva, si rivede lui da bambino che casca e la mamma le fa attento al buco perché nella macchina, accanto al sedile posteriore, c'è un quadrato di vuoto che su una specie di oblò su cui si vede l'asfalto e lui ci infila la testa chiaramente perché i bambini non devi dire mai non fare quello perché lo fanno. E infila la testa e guarda l'albero motore della macchina che gira, l'asfalto che sfreccia a una velocità smodata, i suoi capelli che si intrecciano lì col vento. È una scena molto, molto simpatica, molto carina e fa capire come sia stato cresciuto. Giustamente i genitori avevano 15 anni quando è nato, quindi erano un po' così. E nulla, adesso che facciamo? Mandiamo un pezzo o uno spezzone? Decidi tu, Bernie. Diamo un altro spezzone e poi un pezzo, dai. Ormai ci ha preso questo... Questa serie dici ti ha preso. Allora adesso mandiamo un pezzo in cui ci sono i primi problemi, diciamo. I problemi quali sono? Cambiare il pannolino, farlo addormentare la notte. Cambiare il pannolino ve l'ho evitato perché, cioè, nel senso troppo, fanno... troppo atroce. Sì, è troppo atroce. Cioè, va a finire che gli vomitano addosso. Cioè, non è bello da far sentire in radio così. Poi non potevo svelarvi proprio tutto. Ops, ve l'ho detto. E quindi adesso c'è invece la scena del pianto, quindi mettete i bambini a letto perché il pianto di solito è contagioso, basta che pianga uno e partano tutti quanti, e attenzione, ecco qui Raising Up. È tutta pulita. E le è anche piaciuto il bagnetto, abbiamo deciso che lo faremo ogni settimana. E siccome in prigione spegnevano le luci alle 7:30, credo sia ora che nonno e nonna diano a Princess Beyoncé il bacio della buonanotte. Ok, aspettatemi, torno tra 5 minuti. Gioco nella prossima mano. Jimmy, sono passate 6 ore. Stiamo cercando di dormire. Devi farla stare zitta immediatamente. Di già, per favore, mamma. Lasciami giocare altri 5 minuti con lei, ti prego. Jimmy, devo ricordarti che dobbiamo lavorare domani. O se tu riesci a dormire in piedi mentre togli le foglie, va. Io devo essere sveglio, devo bilanciare il pH, è scienza. Mettila subito a letto. Faccio del mio meglio, papà, scusa. Jimmy, ti sei perso una super festa. Ok, non so cosa vuoi. Camminiamo, piangi. Ti cullo, piangi. Mangi, piangi. Bevi, piangi. Probabilmente vuoi solo piangere, così? Vuoi che piangiamo insieme? Perché mi va di piangere. No, no, ehi, che fate? Ma c'ero quasi. People smile and tell me I'm the lucky one. Funzionava con te. We've just begun. Think I'm gonna have a son. Abbassa le luci. He will be like he and me, as free as a dove, conceived in love. Sun is gonna shine above. Even though he ain't got money, I'm so in love with you, honey. Everything will bring a chain of love. And in the morning when I rise, bring a tear of joy to my eyes and tell me everything's gonna be alright. Noi dormiamo ora. Meno male che ci sono i nonni. Hai visto? Se no sta bambina poverina continuava a piangere, a piangere, a piangere. E lui perché è disperato. Il babbo anche lui è veramente particolare, direi. Cioè, vabbè, ma lui è la prima notte con la bambina, cioè, devi pure capire. L'ha appena lavata, ha fatto il bagnetto, ha cambiato, cioè, già era un passo in avanti per lui, cioè, ho già fatto sta conquista. In più ora non si aspettava subito di doverla fare addormentare. So per fare la passeggiata. Ora gli dico quando sarei tu. Ma vedremo. Tu Piero? Io cosa? Io cosa? Io niente. Io non ho bambini sparsi per il mondo, mi dispiace. Io ti dirò. Anch'io. Ma tu presto. Grazie. Va bene, allora, visto che avevamo promesso un pezzo musicale, io direi che possiamo mandare, se tu sei d'accordo, questa canzone di Kim Carnes, Bette Davis Eyes, che è anche abbastanza famosa. Forse la riconoscerai. Quando la ascolterò. Guarda, guarda, guarda. L'hai riconosciuta? L'hai riconosciuta. Ecco qui, Betty Davis Eyes. Ti è piaciuta? La sapevi, no? Bella, bella, bella. Tu dici bella a tutto, non vale. Perché, cioè. No, era carina, armoniosa, simpatica. No. Armoniosa, simpatica. No, era, diciamo, ascoltabile. Non sono solito ascoltare questi pezzi. Cosa perché ascolti di solito, bello? Sai, me lo chiedo sempre. ascoltatore di radio, quindi ascolterai anche. Sì, ma ultimamente mi capita di ascoltare Caparezza, però... Poi di tutto, io non ho mai, mi ritengo una di quelle persone che non ho mai avuto un genere preferito. Non ho anche mai avuto... Kim Carnes meritava, allora, no, scusa, ascolti di tutto. Sì. Dunque, torniamo a bomba sulla nostra serie TV che oggi è Raising Hope, e volevo farvi ascoltare un po' qual è il finale di questo primo episodio del pilot, no? Il finale, cioè come si conclude questa cosa? Se la tengono sta bambina, la madre l'accetterà o la mandano la portano ai pompieri? Cosa succederà? Solo vivendo lo scopriremo e solo ascoltando. Ok. Si è addormentata. Grazie. Sei pronto ad ammettere che non sei tagliato per questo? Era il primo giorno. Non la lascerò alla caserma dei pompieri dopo solo un giorno. E cosa ti fa pensare che qualcun altro possa fare meglio di me? Jimmy, l'hai quasi uccisa e le abbiamo vomitato addosso. Mamma, io senza di voi non posso farcela. Non è che non vogliamo darti una mano, Jimmy. Non possiamo. Non sappiamo neanche noi quello che facciamo. Beh, prima però sembrava che lo sapeste bene. Era una canzone. Chiunque può cantare una canzone. Charles Manson può cantare una canzone. In realtà lui è molto bravo. Mike ha un suo album. Sì che è bravo. Ma non vuol dire che vorresti che crescesse tuo figlio. Jimmy, cosa c'è che non va con questa bambina? Hai paura che la gente ti guarderà diversamente se la dai via? Sappi che non succederà. È questo il problema, mamma. Io voglio che la gente mi guardi diversamente. Sono stufo che tutti mi guardino come se non avessi uno scopo. Voglio che la gente mi guardi come mi guarda quella bambina. Come se fossi speciale. Questa è la mia occasione per fare qualcosa di buono. Un'occasione per tutti noi di fare qualcosa di buono. Ho sempre pensato che sarei stata brava con una femmina. Dicono che si impara dai propri errori. E noi abbiamo già fatto ogni errore possibile. Come vogliamo chiamarla? Non porterò mia nipote in chiesa con un nome come Princess Beyoncé. Non lo so. A cosa pensavi? Mi è sempre piaciuto Hope. E Hope sia. Ieri ho parlato con una ragazza carina al supermercato. Ha ucciso qualcuno? No, dai, non credo. Sai, dovresti trovare un po' di coraggio e provarci con lei. Ci farebbe comodo un altro paio di mani perché quella bambina resti in vita. No, credo che pensi che sono strano. Beh, pensa quanto sarà felice quando scoprirà che sei normale. Ecco, insomma, il pezzo è rovinato. No, l'ho rovinato, però... No, vabbè, dai, è così. Alla fine è un po' così. La nota di crudeltà in questo pezzo così filosofico e strappalacrime. No, è fatta così, è una serie un po' così che parte da questi alti e bassi continui, altalenanti. E quindi, adesso, a parte dirvi che si scoprirà nel secondo episodio che Sabrina... Sai chi è Sabrina? Sabrina è... lo sapevo, la... Eh? Sì? Mamma? Ma no, nonna, ma no, attenzione. Ma no, ma perché? Hai rovinato tutto. Ma perché ti devo picchiare? Perché? Dammi un motivo. Io te la spacco con la testa, ma dammi un motivo, vero? Ecco, appunto, era quella del negozio, come dice Debbie. Chat, hai ragione, brava. Vedi, lei ci segue, non come te che stai qui e pensi alle vacche. Allora, no, penso alla paccata che ho fatto stasera. Va bene, ci pensare. Tanto poi dopo andiamo e riconsegniamo tutto. Allora, stavo dicendo, quindi Sabrina è quella del negozio, quella con cui vorrebbe provarci. Lo spoiler che io adesso vi faccio è che lei è fidanzata. È fidanzata con un bel tipo, un bel ganso. E lui lo scopre. Lo scopre nel secondo episodio. Io nel secondo episodio, siccome non mi piaceva tanto, l'ho saltato un po', tagliato un po' i parti. Però questa cosa qui andava detta. E quindi ci sarà anche questo problema: il fatto che faccio? Ci provo con una fidanzata? Aspetto? Che cosa faccio? Come mi muovo? Problema esistenziale. Problema esistenziale del povero Jimmy. E nulla. Adesso, poi, invece, nei successivi episodi, in uno in particolare, si parlerà della casa, così come è fatta la casa Chains. E, cioè la casa di loro? Sì, quella di Mau Mau, che poi ci abitano pure loro gratis, senza pagarla. Esatto. E, se questa casa è appunto a prova di bambino oppure no. Secondo me, secondo te... Sicuramente. Vedrai. Conoscendo queste... La bambina è in pericolo, non è al sicuro qui. Oddio, non dirmi che trasformerai questa casa in uno di quegli incubi a prova di bambino. In una casa che pulisco hanno messo un lucchetto perfino sulla tazza del bagno. Jimmy, non puoi proteggere la bambina da ogni piccolo pericolo, deve imparare dai propri errori. Come me, che ho imparato a saltare dal tetto con un ombrello? Solo una volta e poi non l'hai fatto più. Ed hai imparato cos'è la gravità. Ho solo imparato che devo proteggere Hope meglio di come tu abbia fatto per con me. Per la cronaca, pensavo che l'ombrello funzionasse. E poi il vento era forte quel giorno. Dovrei togliere queste cose per la piscina. La bambina potrebbe arrivarci. Non so dove altro metterli. Il retro del furgone è pieno di diserbante. Potrei mettere il diserbante qui, se pensi sia meglio. Perché non ci ho pensato? Il guaio era la gravità. Forse mamma può fare un po' di spazio nella sella. Ci sono cose di cui non mi piace parlare con tua nonna. Una di queste è il suo hobby. Vedi, certe nonne cucinano, altre giocano a bridge, altre fanno un uncinetto. Tua nonna è una accumulatrice. Uno dei pochi vantaggi di pulire le case è prendere tutta la robaccia che i ricconi non vogliono più. Tua nonna non si preoccupa se quella roba le serve davvero. Pensa solo a una cosa: se è gratis, lei la vuole. Che state facendo con la mia roba? Non avrete toccato la mia roba? Non toccate la mia roba, è la mia roba. Mamma, devo fare un po' di spazio per le sostanze chimiche di papà. Non è che per caso potremmo spostare alcune cose che non ti servono? Tutto quello che c'è qui mi serve. Ma 20 portasciugamani. In questa casa non ho mai visto qualcuno appendere l'asciugamano. Tra l'altro ti ricordo che abbiamo soltanto un bagno. Ce l'abbiamo ora, ma non sappiamo quanti bagni avremo quando io e tuo padre compreremo casa. Pensi che ne avrete 20? Potremmo. Ho sfiorato il jackpot nelle ultime estrazioni. 2 settimane fa ho preso un numero. La settimana scorsa quasi 2. Penso proprio che ormai ci siamo. Qual è il jackpot di stasera? 46 milioni di dollari. Bene, basterebbero per comprare una casa e una barca. Ho pensato a dei nomi per la barca. Che ve ne pare di Scialuppa Zuppa? Lovebird? Acqualizzata? Bobunga? Ok, ci penso. Piuttosto pensa dove mettere le tue sostanze chimiche. Vado a prendere delle cose per la sicurezza di... Guarda se hanno dei capanni in saldo. Ma non vado dal ferramenta. Vado al supermercato. Credo che Sabrina lavori stasera. Così si fa. Non arrenderti solo perché è un ragazzo. Le ragazze sono come la lotteria. Se non giochi, non vinci. E sorridi, tesoro. Hai un sorriso bellissimo. Penso di essermi confusa con qualcun altro. Vai! Insomma, ha detto provaci, è come le lotterie. Visto, film che procede, il dubbio. È un film che procede con associazioni di idee, proprio telefilm, no, serie, come si chiama? Stagione, serie, fiction, telefilm. Serie TV, telefilm. No, perché l'altra volta eravamo con i Simpson, eravamo... Sì, l'altra volta eravamo... Stagione, giusto? Sì, l'altra volta era una puntata borderline, un po' sul cartone, serie fiction, è un po' strana, però l'abbiamo fatta ormai, nessuno ci ha detto niente, va bene. Allora, lui cosa fa adesso? Quindi va al supermercato e la becca con quell'altro. Chi ci trova al supermercato? Chiaramente ci trova Sabrina. Cosa starà facendo Sabrina? Probabilmente non ha senso, perché tu questa cosa non c'è mai un così, tu te l'aspetti, dici no. Cosa starà facendo? Buonasera, cowboy. Buonasera. No, tu non devi sorridere. Solo noi. Ah. Cosa stavi scrivendo? Oh, sto lavorando a un racconto. Seguo un corso di scrittura creativa. Bello. E di che cosa parla? Si intitola L'elefante in camera. Parla di una famiglia di borghesi che si trasforma in zombie senza emozioni. Oh, spaventoso. Anche. Mi sto divertendo a scriverlo. Però sono bloccata su una frase. Qual è un sinonimo di pretenzioso? Delizioso? Stanco? Rivoltante? Paralume? In realtà non conosco quella parola. Già, continua, è divertente. Cioccolista? Cioccolista. Cioè, rimaniamo su questo cioccolista. Cosa avrà voluto dire con cioccolista? Non l'ho. Paralume. Ma è un genio questo. Si vede che ha studiato in casa, cioè si è studiato. Boh, chi lo sa? Ha letto il copione. Ha letto il copione, dici? No, scusatemi. No, vabbè, comunque lui è un po' strano. Se ne sarà accorto Sabrina, infatti. Non deve ridere, siamo noi che sorridiamo. E nulla, adesso direi di mandare un pezzo, perché abbiamo mandato tante spezzoni, stiamo riempiendo la testa. Dobbiamo rielaborare tutti questi pezzi. Sì, pensateci un po', cosa è successo, cosa è accaduto. E mentre fate tutto questo... Ascoltatevi Ouch degli Everything. Baby, Got Hooch. Questa invece come ti sembrava, Bernie? Sì, insomma, musichetta. Musichetta, diciamo. Sì, sì, no, diciamo. Però siccome io devo prendere roba dalla serie TV di cui trattiamo, è musica leggera, è musica così. È sì, noi, sì, noi... No, non che io non l'ascolti, però insomma... È musichetta. Vabbè, vabbè, da ascoltare di sottofondo. Vabbè, la rimetto? No, vabbè. Andiamo avanti. Allora. Facciamo il prossimo... Dunque, siamo arrivati, quindi, eravamo arrivati alla scrittura creativa. Però in tutto questo, io... Mi sono ricordato adesso che non vi ho fatto ascoltare la sigla. No. No, cioè tu dici no. A metà come puntata, cioè quasi fine puntata, ormai mancano una decina di minuti. Facciamo sentire la gente la che sigla. Si chiede qual è. Ecco, se io non sbagliassi, perché adesso ho sbagliato, però loro non lo sanno e gliela faccio sentire. Eccoci qui, una sigla così allegra, rapida, ma manco 30 secondi. Da telefilm. Esatto, infatti chiamo qui a fare... I telefilm. Oh, scusate, allora, la mia diciamolo. La mia incompetenza è... No, perdonami Piero. È giovane ragazzo, si farà. Dunque, adesso andiamo a vedere lui... Abbiamo detto che ha visto che la casa è a prova di non è a prova di bambino e quindi vuole cercare di modificare un po' lo standard della sua famiglia, cercare di adeguarlo a quello, al fatto che adesso c'è Princess Beyoncé alias Hope, giusto? E quindi sentiamo cosa succede. Hope dorme ancora? Sì. Perché ti sei alzato così presto? Io? Ho tolto le cose pericolose dal giardino. Sono le mie cose. Jimmy? Cosa hai fatto con le mie cose? Le mie cose non ci sono. Dove sono le mie cose? Sono al loro posto, nella spazzatura. Bart, mi servi. So che per te è dura, ma quello che è successo ieri non può capitare ancora. Avete messo qui in pericolo perché vivete in un mondo di fantasia. Tu raccogli robaccia per una casa che non avremo mai e lui controlla numeri che non usciranno mai. Ora che c'è una bambina dovete iniziare a concentrarvi su di lei e non sul nome di una barca immaginaria. Di quello non parliamone più, lo abbiamo deciso ieri sera. Si chiamerà La classe non è acqua. E allora tu sei bravo a incolpare gli altri, ma dov'eri quando tua figlia è rimasta intrappolata? A comprare cose per tenerla al sicuro. Sì, eri al supermercato che è 5 isolati più lontano del ferramenta. Ammettilo, Jimmy, non siamo gli unici illusi. Tua figlia è rimasta intrappolata perché tu stavi corteggiando una ragazza fidanzata. Bene, hai ragione. Io faccio proprio come voi e devo smettere. Devo concentrarmi su Hope. Lascerai perdere quella ragazza nemmeno se lo vedo. Beh, lo farò. Dobbiamo levare la nostra testa dalle nuvole. Ci è voluto un po' per convincerli, ma alla fine tuo nonno e tua nonna hanno capito di cosa stavo parlando. D'ora in poi staremo più attenti a te. Per me significa comprare tutto in una sola volta ed evitare certe casse. Per tuo nonno significa trovare qualcos'altro da fare col suo dollaro. Per la nonna significa farsi da parte e lasciare che Guadalupe e Lucrezia si azzuffino per una macchina per i popcorn di 20 anni fa. Non ti mentirò, ora che siamo cambiati, le cose in casa sono un po' più tristi. Ma supereremo questo momento. Come ti è andata oggi? A me... ho strofinato Chessy. Questa sera, tra pochi secondi, ci sarà e a te? Dei ho pulito piscine, tagliato erba. Nelle ultime settimane un vincitore. Il jackpot è salito a 128 milioni di dollari. In caso li aveste persi, eccovi i numeri di ieri sera. Non dirmi che erano i tuoi numeri. Potevano essere. Le scelgo a caso. Non lo sapremo mai. È un genio. Veramente il padre, cioè il nonno è di Hope, è veramente un personaggione. Allora... quello a cui siamo arrivati è che c'è un po' di tristezza, no, in fondo, perché non è più la famiglia che era prima, non ha più quella verve, quel modo di vivere appunto spensierato, un po' così, un po' attaccarsi alle stupidaggini per non pensare ai problemi che invece affliggono veramente questa famiglia che vive da 23 anni a scrocco della bisnonna e stanno lì e diciamo hanno lavori precari, un po' così. però arrangiano e vanno avanti e sono comunque contenti. Però invece adesso che non hanno più questa cosa si intristiscono, non hanno più quella valvola di sfogo, quel tentare di vedere la vita in un altro modo. Allora, qual è la conclusione a cui arriva Jimmy? Ci arriva in un momento che per lui è catartico, ovvero alla cassa del supermercato. Ehi! Ciao! Lo sai che hai scritto idiota sulla faccia, vero? È stata mia mamma. Va via in un paio di settimane. Prova a metterci del cerone. Sì, ho provato, ma sembro un idiota. Non c'è proprio niente da fare. Pensavo che oggi avessi lezione. Scrittura creativa? Mi ho mollati. Ho fatto vedere il racconto a mio padre e ha detto blah. Non che lui sia un esperto. Ora vado a un corso di contabilità. So già battere i numeri senza guardare. Senti, lo so che non sono affari miei, ma se vuoi diventare una scrittrice non puoi arrenderti. E se ti arrendi non saprai mai come sarebbe potuta andare. E se scrivessi una storia straordinaria? Potrebbero farne un libro o farne un film. Potresti vincere un Oscar. Non vincerò un Oscar. Questo non lo sai. Tutto è possibile se non molli. Non puoi vincere se non giochi. Pensaci bene. Quanto sarebbe figo vincere un Oscar? Sarebbe abbastanza figo. Potrei stare sul palco col mio vestito Vivienne Westwood e ringraziare Alan Mirren per aver dato vita alle mie parole. Giusto! Non so chi siano quelle persone, ma è proprio quello che intendevo. Grazie. Figurati. Ne avevo bisogno. Dove hai imparato a essere così ottimista e contagioso? Mi hanno contagiato i miei genitori. Sei fortunato. Hai preso tutto? No. Vorrei un'altra cosa. È stato allora che ho capito di volerti far crescere in una casa in cui le persone sognano. Crescere in questa casa con i tuoi nonni mi ha lasciato molte cicatrici. Ma mi ha lasciato anche la consapevolezza che nessun sogno è troppo grande. Dovremo prendere una lavastoviglie quando compreremo casa. Sai che c'è? Ti prenderemo anche una scimmietta, cosetto. Scimmietta! Forse non è stata la migliore delle vite, ma questo non ci ha impedito di sperare che un giorno lo sarebbe diventato. Questo lavoro è fantastico. Pensa, si sentono in colpa perché puliamo il loro casino. Così ne puliscono metà prima di chiamarci e ci riempiono di regali. Ti ho preso un portasciugamani per quando tu e la tua scimmietta avrete il vostro bagno privato. Scimmietta! E quando cresci vicino a una coppia di sognatori, non puoi che diventarlo anche tu. Stasera quant'è il jackpot? 3 milioni. Potremmo prenderci una di quelle grandi case antiche. Quando sposerai la ragazza del supermercato, verrete per il ringraziamento e inizieremo con del cognac in biblioteca. Non so se succederà mai. Hai il ragazzo. Hai il ragazzo ora? Non significa che avrà sempre il ragazzo. Già, potrebbe morire. La gente muore ogni secondo. Eccone uno, eccone un altro. Oh, potrebbe essere lui. Forse non sarò in grado di darti la vita perfetta, ma voglio che tu viva in una casa che ti faccia credere che un giorno potrai averla. Perciò voglio che tu non veda mai tuo padre smettere di sognare. Perché se smetti di sognare, stai dormendo. E vabbè, che abbiamo... padre cinico che... è morto uno. Adesso potrebbe essere lui, attenzione. Vabbè, però insomma, vedi, cioè la parte sempre seria. Sì, sì. Infatti, come poi... ha fatto a diventare così saggio? E poi infatti poi riviene fuori per tutta la sua. È così, vada, è altalenante da una cosa all'altra. E intanto, tanto noi vogliamo dire che sono 21:56, quindi ahimè dobbiamo lasciare il posto a All 90s Long. Lo dico giusto perché sennò si arrabbia. L'altra volta ho fatto finta di non saperlo, si è arrabbiato. Ciao Luca, ciao. Allora, quindi mandiamo un pezzo. La sigla l'abbiamo già mandata. Quindi diciamo, mandiamo un pezzo metal, vuoi mandare, oppure un pezzo più tranquillo? Quello che vuoi. Guarda, mandiamo questa. Leaves in the River di Sea Wolf.